Dai, allora cominciamo, benvenuti. Episodio numero, non mi ricordo, cazzo, sono confuso. Jacopo, lo sai sicuro? Sarà il 16 questo, giusto? Sì, cioè teoricamente è il 16. Bella, ma sono un genio. Allora, avete già sentito la voce di Jacopo? Abbiamo recuperato Andrea, che nell'ultimo episodio non c'era. Saluta Andrea, metti giù le carte e saluta. Salve, salve, salve. E poi abbiamo un ospite speciale che non presento. E dopodiché... mi devo autopresentare, quindi. Ah no, vabbè, avrei presentato dopo a sorpresa. Ma vabbè, ormai dillo di chi sei. Vabbè, ma potevi insomma avvisarmi di questa uscita a sorpresa. Comunque, ciao a tutti, io sono Roberta. E così, ci troviamo a discutere di un film un po' particolare, dai. Allora, questo episodio nasce perché siamo un po' a corto di generi. Non è vero, in realtà è 2 mesi che voglio fare questo episodio. Fondamentalmente mi sarebbe piaciuto fare una roba un po' più seria, in teoria. Poi alla fine si rivelerà un errore enorme, ma dopo... Cosa? Non sarà così. Comunque, scusami, infatti... volevo dire c'è anche un ospite aggiuntivo dall'ultimo episodio, che è Cristiano, che però non ha visto il film e ancora non ha idea di cosa cazzo stiamo parlando. Esatto, esatto. Quindi lo scoprirà con noi. È l'ospite di pietra. Esatto, lo scoprirà insieme a noi. Non è un ospite, è il pubblico lui. Esatto, lui farà la voce del pubblico. Lui è... Io faccio le risate registrate. La clac che no. Va sempre bene. Mi raccomando, fai domande. Andrea, ti avevo detto di posarle, cazzo. Ragazzi, io mi stupisco della vostra, come dire, la fonia della vostra voce registrata, tanta stima. Che vuol dire? Che avete una bella voce registrata, cioè radiofonica, ecco, la fonia in quel senso. Quindi. Grazie, tutto bene. E come avete capito, l'ospite è qui per interpretare questo film di cui nessuno ha capito. No, allora, praticamente questa puntata nasce dal fatto che volevo fare un episodio un po' più serio su... o meglio, in realtà questo è un esperimento. Mi sarebbe piaciuto aggiungere film un pelo più seri ai nostri film cazzoni, perché diciamo che se tutta la programmazione si basasse su quello che guardo io, sarebbero tutti film trash. Se si basasse su quello che guarda Jacopo, non finiremmo più. E Andrea adesso ha dei problemi, non lo dire. E quindi è esatto. Non lo dico. Con Andrea non rivelare il segreto. Il silenzio sarebbe. E, per cui non mi ricordo com'è nata sta cosa, però insomma abbiamo chiesto a Roberta di consigliarci un film da cui partire, un film serio. Roberta è una nota esponente falloso, del... Dai, diciamo. No, no, no non l'ho detto nessuno. Nessuno ha detto palloso. No, allora, qualche mese fa ormai, quanti mesi saranno? Salve. Un paio forse. Sì. Due mesi. Gli abbiamo chiesto, no, diciamo le cose come stanno, gli abbiamo chiesto, Roberta, consigliaci un film che secondo te è bello, forse il più bel film secondo te mai fatto. Però sapio, esatto. Esatto. C'era questa clausola, altrimenti non avrei indicato. In realtà era scontato. Cioè non scontato, deve essere perché... male, capito, tipo, che ne so, Il Padrino, oppure, non so, il film preferito di tutti, Thor Ragnarok, cioè non deve essere una scelta fatta. No, però se non ricordo mai l'aggettivo fu in effetti serio, un film serio, non bello, non sì, bello, un film serio intellettualoide. Esatto, però secondo te molto bello. Sì, secondo me è un bel film, per me quello io lo devo okay. Riscontrare. E c'è altro, però tu c'hai una lista di esatto. Risposta. Allora, la lista è stata valutata attentamente. E hanno scelto il meno peggio. Esatto. Era forse, la lista. Non ne sono ancora così sicuro. Era una lista, Andrea. Questo non è meno peggio. Ma l'hai detto? Sì, sì, Andrea, c'era la lista, l'ha anche scritta Jacopo sul messaggio. Ma tranquillo, Andrea, questo è il meno peggio. Ok. Forse. Senza un po' te, quindi. Sì, sì. No, allora, abbiamo deciso di guardare questo film. In realtà io poi non lo volevo guardare, infatti l'ho visto oggi all'ultimo minuto. Va bene, è un film mangiando un toast, mi hanno detto. Sì, è un film del 73 e il titolo... Ah, intanto questo è un colpo basso perché è un film franco-italiano, quindi... Cioè, sì, e ti ho pensato, sai. La merda. Molto. Che schifo. Che schifo. Fortunatamente, vabbè, non dico niente. È un film quindi del 73 e si intitola La Grande Buffata. C'ha un titolo originale. Oh, che la Grande Buffata. Oh, vabbè. Vabbè, questo lo vediamo, vero? E l'avete invitato voi, Sì. Allora, grazie, Andrea. Allora, è un film che è considerato un film cult classico, non saprei come dire. Il cast è incredibile dal punto di vista italiano, perché comunque tutti gli attori protagonisti, che sono 5 mi pare, sono attori di un certo spessore, sia da un punto di vista di teatro, sia da un punto di vista di film. Il problema è che sono tutti morti, visto che il film è del 79, non tutti, ma quasi. E, il film, per chi non lo sapesse, visto che comunque è un film abbastanza vecchio, ma è anche famoso in realtà, narra di 4 uomini che decidono di suicidarsi in un modo molto brutto, orribile, particolare, mangiando la morte, mangiando fino a morire. E basta, della trama in realtà non saprei che altro dire, perché di fatto quello succede. Tutto così. Capito? Cioè, loro arrivano, cominciano a mangiare e tutto finisce. Ma perché è una trama che si sviluppa in profondità e non in estensione, quindi da dire c'è poco, è vero, è così. Allora, intanto... C'è un film che va in profondità e non in estensione. Prima di lasciare il guinzaglio a Roberta, che poi ci parla di 2 ore del significato nascosto del perché ha mangiato una torta a forma di tette, e diciamo... Devo dire 2 cose che mi hanno traumatizzato. La prima è che, essendo un film del 73, quando io l'ho aperto nel mio monitor, è tipo grande come un francobollo, e la risoluzione di un Game Boy Color, e questo per me mi ha ucciso. Però è abbastanza normale. L'altro problema di questo film è che dura più di 2 ore. Ora, io faccio fatica a guardare un film di 1 ora e mezza. Un film di più di 2 ore... Sala, però tu hai problemi, eh? No, vabbè, è vero. Un film che dura più di 2 ore... Da un deficit d'attenzione. Può darsi. Più di 2 ore... No, è che mi rompi i coglioni. Più di 2 ore e di fatto non succede un cazzo. Comunque, vabbè. E... mi ha traumatizzato parecchio. Poi basta, per il resto... Beh, si confal. Al tema di cui stiamo discutendo. Andrea, devi posare rumore. Le carte, per favore. Non ho carte. Ecco. Tutta l'illusione. No, allora, dopo lascio un po' parlare voi, che così non vi annoio. Volevo dire un'altra roba. Potevamo guardare Amici miei, che aveva più o meno metà del cast ed era molto più bello, ma vabbè. E non volevo dire questo. Volevo dire che... parlando sempre del film in generale, il film è deliberatamente grottesco e con riferimenti sessuali, e apposta per diciamo traumatizzare le persone e non farglielo vedere, no, per insomma per sottolineare il messaggio che porta, va bene, parlerà Roberta, però insomma quello che volevo dire è che il film sembra esattamente uno You Can Eat fatto da me e i suoi amici e i miei amici, esatto. Quindi in realtà non è neanche troppo traumatico, a parte alcune scene un po' troppo. E basta, niente, lascio la parola all'ospite, che è qui apposta per parlarcene. E... grazie Salla, io mi sento onorata e investita, sì, come dire, di questo ruolo. Aspetta, però, considera che noi ci siamo approcciati a questo film, sì, con mente chiusissima, proprio chiusa. Ah, quindi non, io pensavo al contrario, cioè mi approccio a questo film con una mente quasi vergine, pronta, no, allora, se... chiusa, pronti ad odiarlo, no, non è vero, cioè... mente forse troppo aperta, diciamo, considera che Andrea ha quasi perso 8 anni di vita, se non 9. E 8 chili anche in di realtà vita. A me avete traumatizzato così tanto che io l'ho guardato e mi è quasi piaciuto. Se non fosse durato 2 ore, ma mezz'oretta, non sarebbe stato un brutto film. Andrea, tu cosa ne hai pensato di questo film? Mi ha fatto vomitare. Letteralmente. Beh, forse guarda, lo scopo recondito, uno degli scopi potrebbe essere quello in realtà del film, in fin dei conti. Far vomitare lo spettatore. Va bene, dai. Vabbè, Jacopo, dici anche tu una cosa a caldo e poi... Vai, vai. Ah no, non devo dire andare io. Va Roberta e ci dice il tema di questo film. I temi. Allora, quando mi è stato chiesto un film serio, io dietro al serio e bello ci ho letto anche, bah, magari da me si aspettano un film serio, bello, però anche un po' sapio e, tra virgolette, pesante. E allora io ho pensato tutta una serie di film un po', ma non direi neanche particolarmente sapio, cioè non cervellotici, però sicuramente film che vogliono passare un messaggio forte, cioè vogliono veicolare qualcosa, perché spesso, o perlomeno quando ci mettiamo a parlare di film così, la diatriba, soprattutto tra me in sala, è veicolare o non veicolare qualcosa, cioè cosa per te è un bel film, cosa per me è un bel film. Io ho sempre stressato il concetto che per me un film è bello solo anche se... Solo date le mazzate nei coglioni. Eh no, scusa, ti avevo detto. No, un film che mi fa riflettere in maniera anche brutale, ma questo capisco che è un mio portamento di dedicazione, in termini di gusti, nel momento in cui mi approccio a vedere un film. Cioè, voglio un film che mi sconcerti. E secondo me questo film, ripeto, meno di Salò, tra l'altro, che avevo anche messo nella rosa dei film. No, non dire altro, che poi se questa puntata è un successo, facciamo una rubrica e ci ritroviamo tutti. Continuiamo. Meno di Salò, che per me è troppo dei film sapio e belli, ma anche qua, De Gustibus, è un film che... c'entra il bersaglio, cioè proprio rispecchia quello che io mi voglio aspettare da un film. È un film sulla cui, come dire, tecnica e estetica possiamo discutere, perché in effetti non è che abbia un particolare stile, anzi è un film abbastanza lento, a mio avviso, poche scene, pochi ambienti, perché di fatto si svolge in questa villa, in questa casa di campagna. E, però qual è il messaggio dell'autore di Ferretti? Secondo me è quello di... non dire così, che noi immaginiamo un'altra cosa. Ho fatto una gaffa, è Ferretti, no, scusate. No, è Ferretti. No, hai fatto bene. L'autore. È Ferretti. Ferretti. Ferretti. Marco Ferreri. Va bene. Ferreri, perdonatevi, mamma, vedi? Sappio che so no, che faccio questi errori. No, è che in realtà è... vabbè. È che Boris è sempre nel nostro cuore. Nel vostro cuore. Cioè, il messaggio qual è? Quello è una critica potente alla società borghese, cioè alla base c'è questo. Genio! E lo fa imbricando tre tematiche, a mio avviso, cioè quello del sesso, quello del potere e quello del cibo, che sono strettamente connessi tra loro, perché alla base di tutte e tre c'è il concetto di prevaricazione. Prevaricazione della società borghese e della classe borghese, e lui lo fa scoreggiando anche oltre a queste tre. Ma perché parlate di sottofondo? Io non capisco quello che dite. Perché il volume è un po' basso, devi parlare un po' più piano. Ah, parlo troppo a voce alta, scusate. Parlate, scusate. No, ma tanto io ho i vostri volumi in... No, però cioè, siamo noi che non sentiamo voi bene. No, io ho detto solo scoreggiando, cioè dimostra questo tema facendo scoreggiare i protagonisti. Beh, è un modo per dire come questi tre soggetti, no, quattro, scusate, questi quattro soggetti devono arrivare alla morte attraverso il godimento che deriva da una ricchezza che loro hanno accumulato. E tutto ciò cosa ti fa pensare? A me ha fatto pensare che in fin dei conti dietro le loro vite in realtà c'è poco, cioè c'è una vacuità di senso generale che ti porta poi a negare la tua stessa vita, però non attraverso la privazione, ma attraverso la ricchezza che tu hai accumulato. Cioè è come se tutto quel cibo e quel sesso fossero in realtà l'emblema di tutto quello che hanno costruito nella loro vita, ma da cui vogliono poi anche morire, cioè mediante il quale vogliono poi anche morire e autodistruggersi, perché in fin dei conti evidentemente la loro stessa vita li fa un po' schifo. Ecco, questo è un po' il mio pensiero, forse contorto, però, sul film. No, beh, alcuni sì, protagonisti anche probabilmente... Anche da discutere, secondo me, sulla parte femminile, in realtà, su queste tre prostitute, a cui si aggiunge poi la gentile maestrina, la cui figura anche lì è molto da studiare, perché lei ha un'evoluzione notevole durante il film, cioè parte come gentile, appunto, signorina, maestrina, e poi mostra invece la sua vena bestiale, e tra l'altro, diciamolo per il pubblico che magari non lo sa, lei è l'unica a sopravvivere, perché tutti e quattro i protagonisti, spoiler, i protagonisti muoiono. Sì, no, il fatto che loro vogliono, cioè che la loro vita faccia schifo un po', almeno di alcuni, è, cioè lo dicono proprio loro, nel senso che, o meglio, lo tra le righe lo puoi leggere facilmente. E, allora, non lo so, cioè, boh. No, è tutto giusto, sì, ok, nel senso la lettura è quella comune, il fatto è che è un film pallosissimo. Ma perché, come ti dicevo prima, è un film non d'azione, cioè non succede un cavolo in effetti, no, ma... è un film che non va in estensione, tra virgolette, ma va in profondità, perché vuole stressare lo stesso concetto per tutte quelle cazzo di 2 ore e mezzo. Esatto, questo è quello il problema, nel senso che lui non dice un cazzo per tipo 2 ore, dice la stessa cosa e la ripete, come se tu guardassi uno fondamentalmente che mangia per 2 ore, ed è, vabbè. Sì, ma perché appunto non è un film da vedere perché è bello, cioè è un film in cui il regista ti vuole mandare un cavolo di messaggio che te lo devi ricordare per tutti i giorni in cui ti svegli e mangi qualcosa, cioè mettiti, è un film a dieta, cazzo, in cui ti in qualche modo. Hai detto Sala, scusa? Mettiti a dieta, cazzo. Quindi tu lì la mattina, fai colazione, ok, tra tutti i cavoli a cui pensi, magari pensi pure a cavoli, però ieri che ho visto quel film, che schifo, cioè c'è proprio questo, il concetto di stress è un tema che è un messaggio che vuole essere stressato perché ti entri nella testa e non ti esca in qualche modo. Tra l'altro, non so se avete notato, penso di sì perché siete dei sottili osservatori, i personaggi mantengono i nomi dei protagonisti. Eh? Anche questo, i personaggi mantengono i nomi degli attori, scusate, non dei protagonisti. Sì. Cioè Marcello si chiama Marcello Mastroianni, si chiama Marcello, Ugo Toniazzi si chiama Ugo. C'è anche questo filo con la vita reale, apprezzabile secondo me come scelta, ecco, stilistica. Come Terry Jeffords che si chiama Terry Crews, esatto. Su Brooklyn Nine-Nine. No, certo, però come dice la Sala, secondo me, adesso correggimi se sbaglio, Salla, è che Salla è un appassionato di cinema, di film belli, ne ha visti tantissimi. No, quello che dico io è che a me, allora ti dico, se il film fosse durato meno mi sarebbe anche piaciuto, cioè piaciuto è una parola grossa, comunque non mi sarebbe dispiaciuto, perché alla fine comunque è interessante, cioè è un film... però ecco, 2 ore sono tante per aver ripetuto 2 ore niente. E ci sono film che guarderei io che parlano dello stesso tema in modo diverso, in un genere diverso, e che io preferisco, cioè se tu guardi un Fight Club dice le stesse cose però con un altro stile, e sì, sì, sì. Ovviamente sono comunque, cioè sono tutti gusti, ovviamente, nel senso non è che uno è migliore dell'altro, uno è il modo giusto per dirlo. Però ecco, è bello averti qui perché il tuo punto di vista è diverso dal mio e non so, probabilmente anche da quello degli altri due babbuini. Quindi è sbagliato. Sì, no, è vero, è un parallelo con Fight Club, però questo film che magari anche a me, cioè da un punto di vista puramente estetico, preferirei magari guardarmi 2 ore Fight Club in effetti piuttosto che La Grande Buffata. No, però infatti, dai, certo. Questo lo condivido con voi. Perché ti chiama l'essere, cioè. Però mi ha colpito sempre di questo film che io ho visto per la prima volta praticamente 10 anni fa ormai, mi ha colpito molto il mettere questi tre piani, cioè il sesso, il potere e il cibo, perché comunque sono uomini di potere, soprattutto il magistrato, il metterlo così tanto sullo stesso piano, cioè proprio tu vedi questi tre elementi della vita imbricati in maniera fortissima, e non ho trovato tanti altri film che lo facciano in maniera così chiara, netta, magari anche schifosa, perché poi ci sono scene in effetti in cui queste tre cose appunto sono messe insieme e lasciamo immaginare a chi ci ascolti, insomma, mangiare mentre si scorreggia, mentre si fa sesso, no, non è che sia proprio la bellezza però apprezzo il genio di chi ci ha pensato, ecco. Sì. Sì, sicuramente poi avendolo fatto nel 73 era tutto un altro... Sì, poi il valore critico proprio, anche ideologico, forse oggi, non che abbia meno pregnanza, però contestualizzato negli anni 70... Cioè, ecco, le scene di sesso qua sembrano un film di Tinto Brass girato male, come diceva Andrea prima. E, però è una questione di epoca, probabilmente. Cioè, parliamo di comunque 40 anni dopo, quindi di più. Quindi... Non so, comunque il paragone che mi è venuto in mente a me, a parte Fight Club, è Cosmopolis, non so se l'avete visto. Anche quello è un film difficile da guardare, diciamo, però girato secondo me un po' più meglio, cioè un po' più interessante da vedere proprio visualmente, cioè proprio più, non lo so, più alieno, meno... Anche più moderno, diciamo. Certo, più moderno per tanti motivi, però anche Kubrick è moderno, cioè ci sono registi che nel 70 comunque hanno fatto roba che ancora adesso sembra girata letteralmente sulla luna, quindi... Beh, cioè... anche roba che adesso è stata rivalutata e quando è uscita era merda. Tipo questo qui comunque, da quello che leggevo oggi, la critica non è che l'abbia proprio preso come un bel film. Mm-hmm. Sì, no, infatti. Cioè, Zelensky Point è un film orrendo che è comunque è diventato cult, ma rimane un film orrendo. Quale, scusami? Zelensky Point, però durante gli anni è stato rivalutato. Però è un film orrendo. Però questo film ha, penso, una delle battute più belle della storia del cinema, quando la tizia entra in cucina. Eccola. Vai, Saladin. No, vai. Cioè, la tizia che entra in cucina... Tu hai visto oggi il film? Sì, l'ho rivisto. Quindi te la ricordi. Cioè, lei guarda l'acquario. Cos'è quello? E c'è un pollo crudo dentro. Esatto. E il tizio risponde, è un pesce pollo. E lei, cioè, senza proprio battere ciglio, dice, ah, curiosa la vita. Cioè, sì, come... sì, no, è anche... È tutto estremamente grottesco, volutamente grottesco, cioè, e il grottesco per un momento, anche questo è interessante, per tre giorni, cioè il tempo di un weekend, 48 ore, il grottesco diventa la normalità in quel microcosmo che è la villa di campagna di uno dei protagonisti. Tutto sembra normale quando è assolutamente folle, fuori dal... dalla grazia di Dio, come direbbe mia nonna. Questo film doveva darlo in mano a Lynch, la scena di lui che scopre la tizia con il pezzo della Maserati, sì. No, della Bugatti, che cazzo è? Bugatti. Quello, cioè, è un film, quella è una scena brutta di Tinto Brass, te lo dico. ma Tinto Brass, ma invece siete riusciti a contare quanti giorni passano? 3? Allora, si dice weekend, ma di notti me ne sembrano due, se non erro, credo siano due notti, però è anche difficile perché in effetti il film, essendo molto lento, sembra, perlomeno questa è stata la mia impressione, che sia molto di più di un weekend, cioè che passino molto tempo, infinito. Anche perché poi loro in effetti muoiono nel giro di due giorni, cioè morti, affogati o occlusi, meglio per dirla in termini medici, o congelati, insomma. Vittima della loro stessa opulenza. Beh. E sulla figura della maestra, che cosa ne pensate? Perché sono molto curiosa della vostra visione, perché mi sono fatta un po' un'idea, soprattutto questa non me l'ero fatta all'epoca, ma rivedendola adesso, perché mi ero più concentrata su altri temi la prima volta che l'ho visto, però anche la figura femminile della maestra, secondo me, non so, voi cose come l'avete vista? Cosa ne pensate? Cioè, per voi è una roba a latere, non lo so, oppure è importante? Se o non ci avete visto un cazzo? No, ma lasciamo Andrea, dici tu. Prima di rispondere alla tua domanda, ma posso fartene una io? Ma quante volte l'hai visto questo film? E con quale coraggio? Cosa? Quante volte hai visto questo film? Due, ne ho visto uno esattamente 9 anni fa, all'età di 17 anni. Capiscono molte cose. Sì, della mia crescita, poi un po' così particolare. E poi l'ho rivisto adesso, perché comunque dopo 10 anni, insomma, mi ricordavo il senso, anche le scene, però non nello specifico, quindi l'ho rivisto stasera, un po' ieri. Capito, Andrea? Ok. E io ho pensato, Andrea, perché avevo capito che, insomma... certe cose non ti erano andate troppo giù. No, no, ma allora il cibo che aveva mangiato. Io non riesco a dirti che il film è bello. Ok. Cioè, l'ho, magari ti posso dire che l'ho apprezzato. Ok. Però cioè, io letteralmente ho avuto nausea, mi sono sentito male, mi sono fermato due volte. Cioè, ho messo pausa due volte. Normalmente. No, no, guarda, io se fossi nel regista sarei molto contenta di questo che tu mi dici. Cioè, ah, per quello che ti dico, infatti. Il scopo è proprio quello. Esatto. Cioè, quello di far vomitare. Esatto, esatto, per quello dico che l'ho apprezzato, perché se, cioè, lo scopo, se lo scopo è quello... Però è uno scopo di merda. Lo so, ok, però è riuscito nel suo intento. Va bene. Dai, Andrea, dici di sta maestra, cosa ne pensi? Intanto ti ricordo che la maestra si chiama Andrea. Andrea, Andrea. Sì, esatto. Andrea. Ah, è vero, si chiama Andrea. Andrea. Non ricordavo questi. passo. Una cosa e poi ti lascio parlare. Secondo me, vai. Lei in realtà, sotto sotto, pur non essendo la, diciamo, la protagonista, anche se non c'è un vero e proprio protagonista, lei in qualche modo incarna proprio la critica borghese che il regista vuole fare. E poi dico perché, però prima voglio il vostro parere. Va bene, dico io due cagate. Non so se avrebbe superato i test attuali di sul femminismo, sulla partecipazione femminile nel film. Perché di fatto lei fondamentalmente è una macchietta. Cioè, ha un paio di scene in cui sembra che dia un, cioè che abbia un pare, un punto di vista, ma almeno per come l'ho vista io fa quasi sempre quello che si viene detto. Poi magari mi sbaglio, però la mia impressione è questa. Ti dico, la mia impressione invece è proprio di quella che è come se facesse un salto, cioè lei nella sua testa fa un salto sociale trovandosi in quel contesto, cioè non ci pensa due volte quando le viene detto di venire a questa soirée, le viene spacciata come una serata tra gentiluomini, e lei cosa pensa? Cioè, in quell'occhio, negli occhi che poi spesso vengono inquadrati alla telecamera, ho proprio visto quella che da una sua condizione di, diciamo, maestrina delle elementari, dice: cavoli, mi trovo per la prima volta ad una serata con questi, con questo magistrato, insomma, con queste persone di un certo rango sociale. E lei mantiene questa linea poi per tutto il film, cioè, tant'è che poi le viene fatta la proposta di matrimonio, cioè come se lei, a mio avviso, vedesse questo weekend folle come la possibilità di esercitare lei per la prima volta un certo potere, cosa che non le competeva, sì, più di però tanto. Però di fatto li asseconda e basta. Ordinaria. Cosa? No, dicevo, scusami, di fatto li asseconda e basta, cioè fa esattamente quello che gli dicono di fare. Sì, però lei pensa di avere in mano il potere. Cioè, o di trovarsi in un contesto di uomini di potere, diciamo, sì, così. Sì, no, ho capito. Però alla fine lei è l'unica che sopravvive. Anche questo non è, secondo me, a caso, ecco. Lei vede morire tutti e quattro i protagonisti, e per lei il matrimonio con il magistrato è comunque una fonte di emancipazione, che poi possiamo discutere sul fatto che sì, da un'ottica, tra virgolette, femminista, che il matrimonio sia fonte di emancipazione, insomma, non è che proprio faccia onore, uno dovrebbe emanciparsi da solo, però... Sì, tra l'altro lei se li ha scopati tutti nel frattempo, comunque. Esatto, se ci senti è lei che decide, cioè è lei che decide chi scoparsi. Beh, adesso, però gli altri... Più o meno sono anche loro che dicono, ehi, scopami. Ma lei ci sta, potevano starci, non è che la costringa. Io non l'ho percepita questo senso di coercizione, cioè lei, tant'è che mentre le altre prostitute, cioè quelle che passano come prostitute, ma poi se ci pensate sono forse quelle più assennate, perché si rendono conto della follia che vige in questi quattro personaggi bislacchi. Lei sceglie di restare, lei poteva andarsene, però non lo fa, e sì, lì sì, non sì. È, non c'è una coercizione, perché questo per me, secondo me, è abbastanza chiaro nel film, cioè non è che non ci sono né minacce a restare, né lei poteva andarsene quando voleva, quando le altre se ne sono andate, però non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Perché è serba. No, beh, sì, ho capito comunque. La follia. No, ho detto perché serva, ma no, ho capito quello che intendi. No, vabbè, ma vedi, è una visione diversa, nel senso tu magari gli hai dato un'altra sfumatura, io ci ho visto invece la volontà di esercitare in qualche modo anche lei un potere, questo microcosmo folle, che fuori da quel microcosmo non ha, perché è la semplice maestrina, impiegata, statale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, come anche una volontà di evasione, probabilmente, dalla noia, dalla routine quotidiana, anche se tutto ciò ovviamente è completamente folle, perché poi il cibo, che è questo poi il punto fondamentale, che è il sostentamento, diventa poi il mezzo. Ce n'è talmente tanto, cioè siamo talmente, abbondiamo talmente tanto che poi ci crepiamo dentro. Capito. Mi ha colpito questa seconda visione del film che ho svolto oggi, insomma, mi ha fatto riflettere anche su questa cosa che, francamente, forse a una prima visione non lo so, non ti colpisce in prima battuta, ti colpisce più tutto il resto, però io, avendo un po', essendo abituata, virgolettando, alla tematica del film, ho riflettuto un po' anche su questo aspetto delle figure femminili e anche sulle tre prostitute, che, di cui soprattutto la biondina, quella frangetta, che è l'unica che infatti dice: ma vi rendete conto che noi non stiamo facendo altro che mangiare tutto il giorno? Cioè, se vogliono morire, facessero, no? Dice una roba del genere. Però mi piace che vabbè, a parte mo' di scherzi, film di merda, fa vomitare, eccetera, mi piace che questo film dica tante cose senza dire niente, cioè nel senso sì è vero, questo film non dice un cazzo, non ti dice esplicitamente, dice pochissimo, ma comunque, cioè, comunque alla fine capisci cosa stavano cercando di fare, come l'hanno fatto, cioè capisci un po' i sottotesti, semplicemente per accostamento alcune scene, quindi diciamo in quel senso è fatto bene tra virgolette, però ripeto, forse un po' più di sforzo estetico ci poteva stare, di regia dietro ci poteva stare. Non lo so. Beh, sì, lui non fa niente, lui dà solo il tema e basta, perché di fatto no, nel senso che Io non l'ho visto, direi che mentre di solito i genitori con i bambini mangia perché i bambini in Africa muoiono, quindi bisogna non mangiare perché i ricconi in Francia muoiono. Ok, niente, non lo trovo giusto. Lo guarderesti questo film? Diciamo che tra il 75% dei pareri mi è sembrato un po' deluso dal film. No, io non sono stato deluso, a me non è dispiaciuto tanto, devo essere sincero. Ma neanche però, io, infatti. È lungo. Magari si può contare, sì, per avere un'esperienza di... No, comunque... un horror. No, un film che comunque suscita vomitare, ma... anche magari lo suscita solo ad Andrea Collini, però... Da quello che ho capito è stata suggerita una seconda visione. Beh, secondo me io probabilmente questa sfumatura non l'avevo colta in prima battuta, perché se la prima volta che lo vedi sei molto assorbito, sei molto scioccato, diciamo, siccome insomma, da questi accostamenti un po' crudi. E quindi non hai tanto modo, cioè l'effetto sorpresa, ecco, non so come dire, magari ti concentri meno su questo aspetto più raffinato, se vuoi, anche della figura femminile, del significato e del significante di queste figure, che poi io non ho letto, o meglio, lo feci all'epoca, non l'ho fatto oggi, le critiche, cioè cosa la critica effettivamente ha detto e come l'ha analizzato. Da quello che leggevo oggi, il problema era soprattutto il fatto che, essendo il 1973, il tema era un po' troppo grottesco, cioè il film era un po' troppo grottesco, un po' troppo spinto. Comunque, se questo film vi attira, o se siete un cane che ha appena mangiato cioccolata fondente, direi che ci sta. No, la cosa carina è che Roberta ci ha costretto a guardare questo film, costretto tra virgolette, a guardare questo film, e in realtà, cioè, noi avremmo guardato, appunto, Fight Club, American Psycho, avremmo guardato un film simile, che tratta temi simili, ma è svolto in un modo diverso, e quindi questo è interessante. E per cui, no, vabbè, se vogliamo anche, boh, non so se avete qualcos'altro da dire, se no possiamo anche chiudere. Cristiano? No, io in realtà volevo fare una mini scommessa, che in realtà con questo, diciamo, con questo episodio molto così sapio sessuale, molto, come dire, pieno di pareri esperti, vabbè, è molto, diciamo, adeguato, perché parliamo di Hobbs & Shaw. Fast and Furious, certo. In uscita il 7-8 agosto, insomma, tra un po'. Però quello che volevo chiedervi è questo: la scommessa riguarda un franchise che è famoso per le sue scene d'azione, ma anche per i suoi sottotesti, mettiamo così, omosessuali più o meno. Ma non è vero. Quindi la mia scommessa, molto, diciamo, così sottotesto, cioè volevo chiedervi quante scene a sfondo omosessuale ci saranno in Hobbs & Shaw. Ma vabbè, ma che, chi può dare un giudizio a questo? Il giudizio lo daremo noi, cioè si spera che Salla, il nostro boss, sarà in zona a vederlo insieme a noi, questo film. Cioè, Andrea, lui verrà, ha detto che non viene comunque. Cosa? Andrea ha detto che non viene. No, vabbè, per l'occasione, visto che torni anche tu, ci sarò, dai. Potrebbe, esatto, o celebriamo così, facciamo un episodio tutti e tre insieme, finalmente, nello stesso posto. Nello stesso stato. Andremo a Copenaghen a scrivere. Cioè, esatto, Salla tornerà appositamente da Copenaghen in Italia per guardare con noi questo bellissimo film, che sicuramente sarà meglio da grande abbuffato da un sì, punto di vista. Ho preso un giorno di ferie per farlo. Che cura. E quindi decideremo insieme, magari anche in diretta durante il podcast, quante scene omosessuali o a sfondo omosessuali c'erano con Salla, che cioè decido io di fatto, esatto, deciderà lui, però noi scommettiamo lo stesso, perché tanto cioè, fondamentalmente cazzeggiamo in questo podcast. E penso che Jacopo che l'altra volta ha detto ah, ve le dirò prima queste cose, così vi preparate, ah, vi preparate. Però vista la natura di questo, come si dice, di questa scommessa, ho detto vabbè, tanto comunque sono numeri a caso, quindi io dico 3. Ma sì, mi fai un esempio di, che ne so, c'è una scena in cui come si chiama, Jason Statham guarda Idris Elba e c'è uno sguardo carico di tensione sessuale, capito? Una cosa del genere. Sarà il mio sguardo in tutto il film. Quanto è bello, Idris Elba. Vai. Quindi, secondo te, Salla, quante ce ne saranno? 6. Ok. Pari alto. Andrea? 2. 2? Wow. 2. Ok. Roberta? 3. Mi affido, mi metto in coda. 3. Io ho 4. Cristiano 4. Ok, Cristiano e Roberta parteciperanno allo stesso team. Cioè voi siete parte del 3 team più 4, ospiti. 7, no. No, cioè voi siete team ospiti e attualmente il team ospiti, grazie a Otis, sta a 2. Principalmente Otis. Anche io. Aspetta, scusa, chi sceglie dopo effettivamente quante scene ci sono? Io? Salva, principalmente, lo sceglie. Vabbè, allora... Però va bene, parte... Si di rivotare, allora. Ti sembrava una democrazia questa? Giammai. È una, allora, finta democrazia. Dai, va bene, grazie Roberta. E grazie, grazie Cristiano, vabbè, Jacopo e Andrea vi ringrazio, ma tanto siete stati costretti. E, se no, vabbè, diteci anche su Telegram o in giro, oppure decidiamo noi come al solito, se questo tema un po' diverso vi è piaciuto, perché noi abbiamo una lista di film che nessuno di noi vuol guardare, ma che potremmo guardare. E che sono film. Diamo il via alla rubrica sapio. Esatto, e potremmo dare il via alla rubrica sapio. E con la quota sapio, quota rosa e sapio. Ecco, infatti, poi c'è troppo, come dire, maschilismo imperante, è in vero, realtà. È vero. No. È vero, è importante. E niente, abbiamo grazie. Una bella voce femminile che parla ogni tanto, dice due stronzate e pseudo sapio. Sì, però sai qual è il rovescio della medaglia? Che poi potresti anche dover guardare i nostri film. E per nostri intendo miei. Sottopormi a tutto ciò, guarda. Potrei accettare, potrei accettare. E ti dico già la passione così, per favore. Io con mente vergine guarderò i film da voi proposti. Mi impegno, lo dico qui, guarda, proprio davanti a tutti, tutti che ci ascoltano. I film della Marvel però in ordine contrario. No, i film della Marvel non li facciamo più perché mi avete rotto le balle con i film della Marvel. Ecco. Okay, va bene. Zack Snyder da più recente a più vecchio. Zack Snyder è finito, basta, ha già fatto tutto. Prossima puntata sarà decisa da Andrea e sarà una roba sulle masturbazioni di Andrea. No, Polar Arctic. No, la prossima sarà una roba sulle masturbazioni di Andrea e ognuno può guardare quello che vuole, quindi in teoria potrebbe partecipare anche Roberta con una roba sapio, tanto ci sarà sull'argomento, poi magari ti diciamo. Sull'argomento masturbazione? No. Oddio, no. Puoi. No. Vuoi. No. No. Mi dissocio. Esatto. Beh, devo dire che ci sono stati pochi razzismi a parte contro i francesi in questo episodio e per questo vi ringrazio. Perfetto. E basta, niente. Ci vediamo prossima settimana e grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao.